dell'essere come un paio di anni fa, perché ne ho fatte di pessime misere, solo per il gusto di viverle libere, solo per il gusto di decidere, fermi tutti, parlo ancora dell'essere come un paio di anni fa, perché ne ho fatte di pessime misere, solo per il gusto di viverle libere, solo per il gusto di scriverle. Sono arrivato in una notte di stelle a settembre, questo mese è maledetto per sempre, e lo sai perché? Ora non mi va di parlarne, perché? Usciamo un secondo, la notte è fredda come gli animi prede di questo mondo, anzi di sto pezzo di mondo, che sotto giorno per giorno a cui mi rapporto, di cui vi racconto da solo in stanza fumando come un pazzo razzo per razzo. Ragazzo lo vedi, non ti fa bene, esci, non farti fatti, furbo cresci, i fessi abboccano come pesci, tu sei finto falso e mi complimento per come riesci. Avrei fatto un terno all'otto a rimandarti a casa con lo starno rotto. Siamo quelli coi birchi che club sexy, avanti, fatti avanti quei pezzi, io li canto in cameretta e mi diverto, che scherzi, adesso vi ho davanti e faccio fatica a tenervi fermi tutti, parlo ancora dell'essere come un paio di anni fa, perché ne ho fatte di pessime misere, solo per il gusto di viverle libere, solo per il gusto di decidere, fermi tutti, parlo ancora dell'essere come un paio di anni fa, perché ne ho fatte di pessime misere, solo per il gusto di viverle libere, solo per il gusto di scriverle. Guarda bene sta faccia se la vuoi gonfiare, senti bene sta voce se la vuoi tagliare, lo faccio io ciò che ti fa incazzare, l'ho dette io le cose che neanche dovevo pensare. Ehi voi, oh oi, oh oi, tutto bene figlio? Perché io mi sento un po' stringere il collo, è solo una sensazione, sarà ma me li sento addosso, sarà ma fatto stacco qualche segno rosso. Sono fuori con un disco nuovo, scarica questa intanto in quanto sempre ho fatto suono, quindi tutto bene uomo, ho tutto in piedi, un bonus e le redine, credimi è qua troppo stress, credi success, e rime su rime bene, stavolta le mollo per soldi, soldi, non dover aspettare chiamati in compile, copertine, articoli stampati o da vetrine, belle faccine e tipe carine che girano in casa in pattine, quindi fermi tutti, parlo ancora dell'essere come un paio di anni fa, perché ne ho fatte di pessime misere, solo per il gusto di viverle libere, solo per il gusto di decidere, fermi tutti, parlo ancora dell'essere come un paio di anni fa, perché ne ho fatte di pessime misere, solo per il gusto di viverle libere, solo per il gusto di scriverne. Ascoltati questa, cosa ne pensi? Lascia i commenti, invita gli eventi, di dove sei che io non già sei, sopra i venti, e non ho tempo da perdere, ho qualcosa da rendere a chi dice non ti arrendere, ho pronta una mano da tendere, ti ho anticipato tutti, ma se l'ho fatto con in corpo tre canne allora un gioco truccato, ho flippato, così ho perso gli effetti forti, quelli che solo pensiero ti affetti bozzi, sorse solo in una giornata uggiosa, lei mi porse la mano e io col forse l'allontanavo, e dai lo sai com'è sentirsi inadatto, col diavolo non faccio patti e lo faccio a quattro, ehi, ho fatto fin troppo caos, mi hanno buttato in questo buco e non suco, vado fuori a colpi di bounce, fine. Ti ricordi quei giorni sopra i muretti? Fanculo, ho detto che vado e che non mi fermi, fermi tutti, parlo ancora dell'essere come un paio di anni fa, perché ne ho fatte di pessime misere, solo per il gusto di viverle libere, solo per il gusto di decidere, fermi tutti, parlo ancora dell'essere come un paio di anni fa, perché ne ho fatte di pessime misere, solo per il gusto di viverle libere, solo per il gusto di scriverne.